Partiamo con la solita formula, sono le 6 settimane, che sono i periodi classici in cui ci siamo sempre collocati, si inizia il 17 giugno e si va fino al 24 di luglio. Il programma è frutto di appunto mesi di lavoro, ma in questo anno anche di più, nel senso che appunto ci trasciniamo un po' di cose da parecchio tempo. La formula è quella solita, biglietto a pagamento per i concerti più importanti, quelli di profilo, diciamo così, nazionale e internazionale, e ingresso gratuito soprattutto nei fine settimana, che è poi la sempre stata la caratteristica principale dell'attività che abbiamo fatto. È il solito mix di un po' tutti i generi, ma un po' questa è sempre stata la caratteristica di Botanique. Abbiamo sempre lavorato un po' più sui filoni che non fossero quelli, diciamo così, del rock convenzionale, nonostante ci sia tanto rock, anche perché come al solito facciamo un programma più umani, tentando quando possibile di non sovrapporci le altre attività. Fortunatamente anche uno dei vantaggi della pandemia è stato che si è creato comunque un rapporto solidale di collaborazione con tutti i club della città. Nova poi è uno dei festival che si è creato appunto come frutto della collaborazione che si è instaurata in questi 2 anni difficili, e quantomeno anche adesso, anche sulla programmazione che ogni attività, ogni club fa singolarmente, si è trovato, diciamo così, le condizioni per lavorare, per non sovrapporre le cose, visto che comunque ci troviamo in una fase ancora abbastanza difficile. Anche questo è un elemento sicuramente di valutazione da tenere in considerazione, nel senso che siamo in qualche modo usciti quasi indenni dalla pandemia, però i numeri non sono ancora certamente quelli che c'erano pre-pandemia, nel senso che comunque difficoltà economiche ci sono ancora, un po' di diffidenza rispetto alla mancanza di stanziamento, nonostante tutto c'è ancora, e soprattutto c'è una quantità di eventi fuori del normale, nel senso che chiaramente con tutte le band, soprattutto quelle importanti, di profilo importante, dopo 2 anni che non facevano tour, a parte quelli che hanno deciso di fare qualche piccolo evento con posti seduti, è il primo anno che si riparte per tutti, per cui rispetto alle condizioni normali tutte le band sono in tournée, tutte sovrapposte chiaramente su giugno, luglio, agosto, settembre, per cui in un periodo veramente difficile in cui la gente è necessariamente costretta a scegliere, perché chiaramente non può pagare 20 25 € di biglietto tutte le sere. Questo è inevitabile che un po' di ripercussioni ce li ha, per cui siamo ancora lontani da un ritorno, diciamo così, alla normalità. Però partiamo appunto con l'entusiasmo di 2 anni fa, di quando le cose andavano bene, quando appunto abbiamo festeggiato il decennale di questo spazio. Come sapete, l'Europavox è una manifestazione che si tiene, credo, ormai da 7 anni. Fa parte di un progetto cofinanziato dalla Comunità Europea, dal programma di Europa Creativa, accomuna Italia, Austria, Romania, Belgio, Francia, Lituania, la Croazia. Ospiteremo 8 band dall'Europa, emergenti, ma come ha detto Lele, già affermate nel loro paese, ma che semplicemente hanno bisogno di fare anche al di fuori quel trampolino di lancio che speriamo che il Botanique possa aiutare. Abbiamo band dalla Bielorussia, dall'Ucraina, dalla Grecia, dall'Islanda, dalla Germania. Queste sono le nazionalità che ospitiamo quest'anno. Ci tengo a dire che abbiamo fatto una scelta di offerta libera all'ingresso per cucine popolari e piazza grande. Questa è una cosa che ci ha chiesto Pasqua di fare, perché dice: noi siamo fortunati, abbiamo un pasto caldo che ci aspetta e un tetto sopra la testa, ci sono persone molto meno fortunate di noi, e attraverso la cultura dovremmo lanciare anche dei messaggi. Ecco perché il plastic free, ecco perché l'aiuto alle persone che hanno un po' più di difficoltà, e ci teniamo che l'offerta libera sia cospicua per poter dare a loro un sostegno che, come dire, può aiutare in dei processi di svolta delle persone che hanno veramente necessità. Avremo poi gli operatori internazionali che vengono a vedere non solo Botanique, ma che vengono a vedere le band, perché è un circuito virtuoso che permette alle band non solo di suonare al di fuori del loro territorio originario, ma anche di suonare davanti a altri operatori che solitamente poi, quando interessati alla band, bucano nei loro paesi di riferimento.